sorriso che non si spegne mai, dolce candy a tutti porterai. La serenità della verità, dolce candy ti accompagnerà. È tua amica la semplicità, che ogni porta sempre ti aprirà. Candy, ti comporti con generosità, anche nell'avversità. Candy, la felicità vedrai, ritornerà con te per sempre, resterà. Spegne mai, dolce candy a tutti porterai. Che spontaneità c'è negli occhi tuoi, dolce candy resta qui con noi. È tua amica la sincerità, che ogni porta sempre ti aprirai.